Buongiorno a tutti. Un grande ricordo questa mattina, mi avete fatto venire in mente 38 anni fa, avevo 14 anni. Io e un mio amico decidiamo di fare un'impresa col nostro motorino nuovo, io un Malanca, lui un Benelli, e diciamo ai nostri genitori che dobbiamo fare un'intera giornata con il prete, con i Boy Scout, invece prendiamo su la mattina alle 5 partenza da Faenza e andiamo su verso Venezia, perché volevamo vedere Venezia. Col Malanca. Col Malanca, io un Malanca da cross e lui un Benelli da strada, insomma, due motorini 50, neanche tanto truccati, andavano a 40-50. Sì, sì, erano diciamo ordinari, in legge, quelli che vi guardavano, insomma, con quello sì, sguardo. Non contenti, dopo aver visionato bene Venezia, andiamo su, dai, abbiamo ancora del tempo, andiamo su fino a Bassano del Grappa e andiamo a fare un giretto sul Monte Grappa. Ma quante ore avete messo per andare su? Quante ore ci avete messo? Tutto, quando siamo tornati alle 10 di sera a casa, avevamo fatto qualcosa come 13-14 ore di motorino, 515 chilometri in una giornata, dalle 5 del mattino fino alle 10 di sera, eravamo stravolti. Poi la media, secondo me, non poteva essere più alta dei 40 all'ora, perché se ricordo, il Malanca Lacrosse aveva un rapporto dietro da salita. Non avevo cambiato il rapporto, avevo messo il rapporto più piccolo. Ah, beh, se no, dico. No, quello se no facevi 20 all'ora. Sì. Comunque è stato pazzesco, perché lui aveva la sella quadrata, io invece ce l'avevo rotondeggiante. Ogni tanto ci cambiavamo la moto perché... E se no uno c'aveva il culo quadrato e l'altro rotondo.